di senti. Ci stanno facendo di senti. Ma cosa devi fare? Come la fai la cosa? Mi si fa la cosa? E se la mi sa che la vista? Dai, che si schia. Ich kapiere mir sehr und ich kapiere.